programmi proseguiranno ora con la messa in onda di Power Mall, un programma di intrattenimento musicale dedicato all'emergente fenomeno della micro music italiana. Da tutta la redazione, buon ascolto! Land of Giants 世界に羽ばたく全日本プロレスリング株式会社年末恒例の世界最強タッグ決定リーグ戦はとんでもない怪物以上プロレスニュースお伝えいたしました。ありがとう。 Non ti inventare te. Dai, vai. Non è affatto leggenda che ogni micro musicista che ambisca a essere definito tale abbia nella propria abitazione svariate copie di un ben preciso libro. Essendo un individuo a cui si adattano soltanto i superlativi, ne risulta che le relazioni del micro musicista con il sesso femminile siano alquanto burrascose. Anche per il fatto che generalmente il micromusicista è un buon coglione. L'oggetto in questione è solito essere regalato dal micromusicista alla propria ex quando viene mollato. Il libro, edito da Mulino, è di Ertel D e si intitola Troia, un classico. Speaker, ma avete dato qua? E poi anche il libro è edito da Delphi, non da Mulino. Thank you. famoso studioso del fenomeno della micromusic, il professor Sigmund Chandrasekhar, è deceduto oggi all'età di 82 anni. Qualche giorno fa, in uno sfogo con la moglie, si è lasciato scappare che studiare la micromusic gli aveva rotto le palle. Ah, cazzo, ma non si può dire ste cazzate! Dai, metti un po' di musica almeno. Dai, cazzo! Affermato che quando compone vede ectoplasmi verdi. Ma no, ma cazzo, ma sei ritardato allora? Ma c'è scritto così? No. Ma no. Thank you. Evitare di giustificare sul piano pubblico quanto seguirà non è un difetto, bensì l'essenza della conversazione. Abbiamo il piacere di presentarvi un'intervista radiofonica realizzata qualche tempo fa con Francesco, musicista e sperimentatore di Crotone. Francesco, con i suoi due progetti OE e Sissinamatic, si discosta dalla micromusic per alcuni aspetti rilevanti. Nonostante questo, la pertinenza della chiacchierata è data dalla possibilità di chiarire alcuni aspetti legati alla micromusic e al circuit bending, se non altro per contrasto, laddove la poetica del progetto OE rifugge l'immaginario, ma non le tecniche, proprie della micromusic italiana. Per le sorgenti sonore usi di tutto? Uso sostanzialmente dei circuiti elettrici che ho autocostruito, diciamo, seguendo schemi su internet e poi un pochino bendati, diciamo. E poi quello che trovo, a me piace molto l'idea di riciclare, diciamo, spazzatura elettrica che trovi per strada, tipo vecchie stampanti, ne ricavo i motori e poi magari li amplifico con dei pick-up. Oppure in questi giorni sto lavorando su un floppy sempre trovato in giro. Quant'altro abbia un buon suono, cerco di utilizzarlo. Io sin da un bambino sono sempre rimasto affascinato dai suoni delle vecchie stampanti, quelle là ad aghi. Uno dei miei desideri, insomma, sarebbe proprio riuscire a controllare tutte queste sorgenti sonore in maniera da poterci suonare effettivamente. Quindi per ora mi sto occupando molto del controllo, più che altro. È una sperimentazione continua, poi di tanto in tanto esce qualcosa di buono e lo registro. La traccia che mi hai mandato e che magari adesso mettiamo in onda mi ha colpito tantissimo, perché sei riuscito a trasformare un suono che è forse il suono più odioso che esista sulla faccia della terra in un suono accogliente. Tutto sta, secondo me, il merito di questo effetto è proprio semplicemente limitarsi a guidare il suono che esce in una condizione che è più o meno casuale, e poi cercare di amalgamarlo e guidarlo, ma essere una cosa sincronica, no? Ascoltare, così, nasce dal caos, ma tu non cerchi, non hai la presunzione di dire adesso voglio fare questo. Tu puoi decidere un po' la struttura, ma non la forma totale. In questa maniera segui la naturalezza anche dei suoni odiosi. mente due cose. La prima è che quando la prima volta che ho sentito la tua canzone, mi sono immaginato un foglio che entra in quella stampante. E secondo me è quello che percepisce il foglio, quel rumore. Come, cioè, non lo so. Mi sto un po' impastando, spero che tu abbia capito un po' quello che intendo dire. Sì, tu insomma vedi, è come se tu avessi percepito quel suono da un altro punto di vista, insomma. Sì, sì, sì, sì, sì, esattamente. Dal punto di vista del foglio di carta. Esattamente. Beh, mi fa piacere, perché alla fine bisogna, è un mio scopo anche decontestualizzare tutte queste varie sorgenti. E poi un'altra cosa molto interessante dal punto di vista compositivo è che mentre per quanto riguarda la musica colta, in generale tutta la musica, ma in particolare la musica colta, ciò che si fa è prendere note e metterle sullo spartito, e ciò che si asseconda in realtà è un'intuizione su una melodia, su un fraseggio, su un tema. Il tuo modo di comporre musica, come dicevi prima, è invece assecondare suoni già preesistenti, e questo è molto bello. Sì, sì, soprattutto è improvvisazione al 100%. Cercare di riprodurre un brano è praticamente uno sforzo inutile, secondo me. Non ci ho mai provato e né voglio farlo, perché appunto queste macchinette che ho sono, c'è un livello di entropia così alto, insomma, che è inutile provarci. E poi sì, credo anch'io che sia molto bello, perché è un approccio non necessariamente nuovo, però sicuramente diverso, neanche tanto presuntuoso come volesse magari una composizione rigorosa, eccetera. Tu non hai la presunzione di dire adesso faccio questo e quest'altro. Tu fai con la tua macchinetta, fate qualcosa e vediamo che esce, basta. Qualcosa del genere era stato fatto anni fa con i pianoforti preparati, buttando oggetti a caso dentro pianoforti a coda, e poi non si sapeva dove finivano quegli oggetti, si suonava e poi si scopriva lì per lì che magari schiacciando il do della seconda ottava usciva un rumoraccio, e allora si improvvisava un po'. Però nonostante tutto il risultato era molto costruito, era molto artificiale. Mentre la musica che proponi tu, tutto sommato, anche se è disumana, ha, come dire, un suo aspetto naturale. Sembra un'interpretazione umana degli oggetti disumani che ci circondano, una cosa del genere. Sai, non mi piace il termine umano, preferirei naturale a questo punto, perché sì, io seguo una naturalezza, come diciamo, tendenza delle cose a sistemarsi in un certo modo. Cerco di seguire queste tendenze che poi creano forme ordinate, ed è quello che sta alla base di tutto ciò che esiste, sostanzialmente. E io con queste fonti di caos, di entropia, cerco di palesare questo, insomma, dare un suono che rispecchi questo. Che differenza c'è tra la musica che proponi tu e il circuit bending? Ma credo che la differenza più grande sia il fatto che nel circuit bending e anche nella micro music in generale mi è sembrato di notare che c'è molto impegno, insomma, nel rendere tutto felice, no? Cioè la musica è molto happy, diciamo, e invece io non voglio assolutamente far questo, e infatti non mi piace neanche tanto usare suoni troppo giocattolosi, diciamo, proprio perché hanno quest'impronta happy che non mi piace per nulla. Hai visto il film Tetsuo? Ah sì. Ti è piaciuto? Sì. Ti ci ritrovi? Ma non credo di essere così frenetico, però sì. Però sì, mi piace l'atmosfera, sì. Open source. Sì. A proposito di nerd e gente che spippola e smanetta il computer, leggevo nel brevissimo profilo tuo su MySpace che sono due le linee principali che usi proprio materialmente nella tua attività, che è l'utilizzo di strumenti alternativi fatti in casa e di software open source. Quello, il software libero, per me è una fede vera e propria, insomma, ci credo tantissimo, mi ha conquistato da subito appena l'ho conosciuto, e oggi come oggi fortunatamente abbiamo anche degli strumenti per l'audio validi che vanno benissimo per quello che devo fare io, e quindi li uso, e ci tengo anche a precisare che uso quelli. Ecco, ad esempio, facciamo un po' di nomi di programmi, così facciamo anche un po' di informazione. Ah, beh, io uso parecchio un programma che si chiama FreqTweak, che praticamente fa un'analisi dell'input che gli dai, di Fourier, mi sembra che si chiama l'analisi che fa, cioè il matematico che ha posto la matematica, insomma, per questa roba, e insomma lui ti dà... Puoi giocare con le equalizzazioni, ci sono degli effetti e in tempo reale li puoi mandare. Io lo uso metto l'output del mio mixer con tutte le macchinette al computer nell'input, e poi così posso usare l'equalizzatore, delay, queste cose qua, FreqTweak quindi. Poi vabbè, utilizzo Audacity per tagliare le tracce che faccio, insomma. Quindi diciamo l'output di FreqTweak lo faccio entrare nell'input attraverso Jack, che è questo server sonoro in real time bellissimo, che è open source anche quello, ti dà la possibilità di mettere l'output di un programma nell'input dell'altro, eccetera, così ti puoi fare le tue catene di effetti e quant'altro. Quindi poi io uso questi programmi per equalizzazioni, eccetera, o filtri. C'è un filtro che uso spesso che non mi ricordo come si chiama, è un peccato perché è molto bello. E poi il tutto lo faccio entrare in Audacity e la registro, e una volta che ho finito di registrare taglio i silenzi magari e faccio l'MP3. Cosa non sopporto di questi fantastici software super fighissimi? Che tu hai una marea di possibilità, tipo hai migliaia di manopole davanti a te, ma c'è solamente un ditino del mouse per muoverle. Questa cosa mi distrugge ogni volta che provo a usare. Ed è per questo solo che ho cominciato a fare scatoline autocostruite che suonano male, magari, però almeno ce li ho fisicamente lì davanti e non spendo un occhio per avere delle manopole, ecco. Anch'io un po' che ci penso, e la soluzione sarà lo schermo touchscreen. Sì, esattamente. Cioè, avere un mega schermo davanti invece magari della console o del mixer e si spippola, sì. sarebbe il massimo. Ma ce ne sono mo' di cose del genere, mi sembra che si chiami Lemur, una roba che costa un occhio, che è praticamente sto touchscreen che serve solo per suonare con un software dentro, eccetera, e fa cose paurose, bellissimo. Che figata. Non so chi l'ha fatto, ma l'ho visto su YouTube e sono rimasto scioccato. Suoni anche dal vivo? No, mai fatto. È da poco che suono. Ho sempre avuto il desiderio, ma è relativamente poco che mi sono messo a suonare. Sostanzialmente da quando ho comprato il mixer. non ho mai fatto un live, né per ora ho voglia, non mi sento comunque abbastanza pronto, insomma. Non lo so, ci sto pensando, ma per ora no. Non è obbligatorio fare serate o... Ah sì, ma sarebbe divertente magari, anche per farsi conoscere, per vendere qualche cassettina, cose del genere. Mi sono messo d'accordo con un amico, tra l'altro prima o poi, tra poco uscirà una mia cassettina. Ma con OE o con l'altro progetto? Con OE, sì. Dove ci sarà anche il pezzo che ti ho mandato, quindi lo puoi prendere come un'anteprima se vuoi. Wow. Il promo dell'MC. Sì, c'è un mio amico che fa queste diverse cassettine che è specializzato in Arch Noise, praticamente. Ah. Quindi si chiama Zatlat Aitas, qualcosa del genere. Un nome proprio impronunciabile. Sta a Roma, si chiama Ginga Garuga. E anche lui fa Arch Noise, così. Allora, due parole sull'altro tuo progetto per onor di cronaca. Io l'ho sentito e mi sono chiesto, ma che roba è sta qua? Nasce dalla mia passione per il black metal, sostanzialmente. Io vado pazzo, lo ascolto quotidianamente per me. Io ho cominciato col metal da ragazzino e non sono riuscito a scrollarmelo dall'osso, sostanzialmente. E quindi così io... Ma il metal, trash metal... No, black metal, rigorosamente. Preferibilmente norvegese. Solo black metal ascolto come ora nel campo del metal. Che lo trovo semplicemente fantastico, insomma. Tra tutti i vari generi e sottogeneri e quello che è rimasto. Ah, però insomma non è che mo tutto il black metal, perché ci sono certe cagate, insomma, in giro. Metal di un certo livello, diciamo, va. Per esempio, però... fammi due nomi di gruppi. Vabbè, i mitici Darkthron, perché sono storici, li insegniamo. Io vado pazzo per un tipo che si chiama Indian, però lui è il migliore di tutti. È solo ed è incazzato, del norvegese, e questo mi basta. Fa un black metal raw, si definisce, no? Molto crudo, insomma sporco, ha dei suoni veramente sporchissimi e non si pone il problema di pulirli. Questa cosa è un altro punto in più per lui, insomma. È veramente ipnotico, te lo consiglio. E poi altri, diciamo questi due, no? Sono i migliori. E poi così, questo progetto è nato perché così, scherzando col computer, ho fatto questo pezzo che voleva unire l'electro e il black metal, così, è uscito bene, che è piaciuto, è uscito anche su una compilation di una fanzine romana che si chiama Pere Uva, e una volta che è fatto uscire l'hanno sentito un po' di persone, ho avuto diciamo dei feedback positivi, e così ho deciso di continuare a scherzare su questa linea, e basta. È nato prima Sisinamatic, infatti, che OE, e porto parallelamente questi due progetti, insomma. spero di uscire anche con Sicinamatic quanto prima, uno split, ma non dico i dettagli perché niente è sicuro. Finito.